possa pensare o tutto salvare, ma loro dovevano sfogare la violenza e trovare un diverso dal colpare. Fa paura chi non si adatta e non si può catalogare, chi non accetta una vita defatta e prova ancora a volare. Quando sono venuti a prendermi non capivo quale crimine avessi commesso, ho potuto solo arrendermi, la loro operazione però è stato un successo. Quelli come me devono essere rinchiusi prima che sia troppo tardi, prima del contagio, da rieducare anche con abusi, l'importante è nascondere il disagio. Se una mela marcia da buttare, succhi l'energia alle persone, un inutile vecchio che non si vuole adattare, basta con sta storia della rivoluzione. Onore alla bandiera e alla patria, alla nazione, benvenuto nel futuro di repressione. Onore alle divise, il marketing, il tuo padrone, benvenuto, questa è la globalizzazione. Quando sono venuti a prendermi dicevano che era per il mio bene, pensavo volessero difendermi e mi hanno messo in catene. Ho capito di essere io il colpevole, ma ignoro ancora il reato. L'importante è colpare il più debole che soccomberà dallo Stato, che tollerato anche un incidente salverà la brava gente. La tua vita non vale niente quando ti etichettano perdente. Quando sono venuti a prendermi erano sicuri di trovarmi, a loro non interessava comprendermi, ma solo minacciarmi con le armi e correggermi in attesa per insultarmi. Avrò fatto qualcosa di terribile per arrestarmi, per arrestarmi. Se la mela marcia lo zoppo te non invitare, succhi l'allegria alle persone, chi viene con te impara a zoppicare, dopo cade in depressione. Onora il progresso, il capitalismo e la nazione, benvenuto nel futuro di repressione. Onora i disonesti, raccomandati la corruzione, benvenuto, questa è omologazione. Quando sono venuti a prendermi ho capito che era iniquità, hanno cercato anche di vendermi una libertà ricostruita, ormai è troppo tardi, tutto ai frantumi, lavaggio del cervello da parte di animatori, fiumi inquinati, cielo coperto dai fumi, blogger, influencer, calciatori, ma la salute non esiste. Contano solo gli affari, ma un ricordo sopravvissuto mio aggressore ancora dentro me, forse lo chiamavano amore. Quando sono venuti a prendermi mi hanno inflitto una pena, coperto di insulti non potevo offendere, il mio entusiasmo ad ogni situazione oscena, legare il futuro a persone disgustose, lo schiavo per sempre per l'eternità, pagare il mezzo a famiglie mafiose e dire che sono felice, questa libertà. Se una mela marcia una zecca, un parassita, demotivi le persone, troverai sempre porte chiuse nella tua vita, qui importa solo la competizione. Onora il precariato, le banche, lo sfruttamento, benvenuto nel futuro di repressione, inquinamento, radiazioni, emarginazione, questa è la tua punizione. Se l'ultima è graduatoria, non sei più produttivo, pretendi anche di avere una pensione, vorresti avere assistenza ora che non sei più attivo, ma per te ne arriva una malattia, la cura è un'illusione.